confrontata con l'altra, cioè siamo saliti di tono ad un bel mi pierda. No, era che cosa che... è difficile da capire cosa che sia questo tono così. No, non ho idea, ma voi le televisioni sempre le vedete bene, sì? Sì, sì, televisioni per vederle non c'è problema. Forse io non lo so, ti ripeto, senza strumento io non posso parlare. Forse qualche ripetitore, secondo me, perché non è cosa che esce da casa quel rumore per me. Il ripetitore sta 24 ore su 24, su 24 acceso però, Cappa. Bisogna vedere anche, non lo so, perché adesso stanno cambiando anche le modalità d'orario di questo disturbo. Bisogna vedere anche se questo disturbo qui che sento io in queste ore stia trasmettendo dati, oppure che si stia resettando qualche componente di questo sistema qui. Cioè io le ho pensate tutte. Finché l'avessi sentita io qui, sono dentro casa, va bene. Sì, ma sentirla anche lì, su vicino all'aula bunker, non lo so io, Pierpa, mi lascio un pochino così. Anche perché io sabato scorso sono andato lì, come già ti avevo detto, alla centrale della Telecom che c'è in Viale Sicilia, ed è centrale per il Monte Rosello Alto, e il tipo mi ha detto che lui questa apparecchiatura ce l'ha, però non la può portare fuori dall'ufficio. Che quando io gli ho detto, ascolti, ma quel ripetitore che ho io a 100 metri, se ci sono 50 metri in linea d'aria da casa, e lui mi ha detto, quello è o è Omnitel oppure Wind, una cosa del genere mi ha detto. Quindi può essere anche quel ripetitore che è qui sotto casa. Carabina. Per quello non ci sarebbe tanto problema, perché salire sul tetto costa poco e mettergli una carica di tritolo sotto, altro che carabina. Poi glielo do io al tanto di stare lì a rompere le palle alla gente con segnali strani e cose strane, mi hai capito? Perché loro, avendo questa strumentazione, cioè questo cavolo di ripetitori, dovrebbero avere anche delle strumentazioni che gli possono dire che hanno anche qualche componente del ripetitore che sta andando in affangulo, mi pierdo. Allora, dovresti fare una cosa, che la ditta manutentrice del prepetitore farti dare il numero e telefonarli e dire tutto. Se tu per esempio dici, vai, io ho deciso di mandare la polizia postale a controllare, oppure se controllate voi che non ci sia qualche dispersione a questo colo, perché io ricevo un segnale fortissimo a casa mia. Così almeno loro mandano i tecnici a controllare, capito? Allora io sabato scorso, quando ho parlato con quel tecnico della Telecom, lui ha detto se effettivamente, perché quel ripetitore che c'è in Viale Sicilia, non so se è presente dove sto dicendo io, proprio nel curvone, il tipo mi ha detto se ci dovesse essere qualche anomalia nel nostro ripetitore lo segnalava subito nelle apparecchiature che abbiamo. Per impianti fissi di casa, no? Il tipo mi ha detto che è GSM, però allo stesso tempo mi ha detto che loro, il loro segnale viaggia 20 volte più in su del nostro. Ma non è importante, se hanno qualche anomalia posso causare i disturbi, appunto per quello, quando sono per certo fanno delle cose ogni 60 giorni, cioè perlomeno per quelli che conosco io, poi delle altre ditte non lo so, guarda, so che comunque esiste questa cosa che i tecnici fanno, perché non sono ogni giorno lì, e ogni 60 giorni credo che addirittura viene sostituita anche, ci sono delle apparecchiature di sotto, c'è un sistema di raffreddamento, tutte quante cose, no? E le apparecchiature, viene sostituita addirittura una scheda che fa funzionare il tutto, e viene sostituita ogni 60 giorni, e quindi loro se c'è un'anomalia se ne possono accorgere ogni 60 giorni, a meno che non si spegga il ripetitore. Lo so, io adesso domattina come prima tappa, giusto per mantenere la parola che gli ho dato, mi devo avvicinare lì in Viale Sicilia e cercare quel tipo, perché lui ha detto che vedeva un pochino se riusciva a darmi un colpo di mano, dopodiché vedo un po'. Comunque, in tutto Sassari, potrebbe essere dei ripetitori, perché si giri, noi girando col mezzo in tutto Sassari, uguale a quello no, però diciamo simili, è vicino ai ripetitori di quel segnale che sentiamo parecchio. E allora li buttiamo a terra. Non sarebbe male, poi comunque cazzo, è una cosa che io avrei cercato di risolvere, dovessi fare di tutto, va. E di tutto cosa? Dimmi cosa, più di quello che ho fatto, dimmi cosa. Ehi, quello che hai fatto, cioè, cercare di risolvere abbonariamente, e quando non ci si riesce non bisogna usare la forza. Allora, ho girato, ho fatto, ho chiesto, mi sono sfacciato, ho fatto di tutto, cioè più di questo io non posso andare a attaccare contatori in tutto il quartiere, a chi mi casa ti denunziano. No, infatti te lo sto dicendo, tu hai cercato di porlo bonariamente, adesso vai con i mezzi che ti sono rimasti, quindi con le vie della denuncia e basta. E adesso vedo di farmi un giro d'orizzonte domani mattina. Innanzitutto passo lì in Viale Sicilia perché gliel'ho promessa a quel tipo, e poi vediamo un pochino, sempre che lo trovi mi, sempre che magari quello sabato scorso mi ha detto tra una settimana ci sentiamo, sì non si più vivo, ma come fanno da voi, oi. Prova a sentirlo, vedere. Io non lo so. Io se avrei potuto fare, se avrei avuto lo strumento, te l'avrei fatto volentieri, ma non ne ho. Capito? Non ne ho. E K di positivo, va. Questo strumento sembrava che fosse una manna dal cielo. Mannaggia, per togliermi. Ma togliermi, oddio, sapere almeno di che morte dovevo morire, invece tutti ce l'hanno e nessuno, oh, e nessuno ti tende una mano, ma comunque va bene così, dai. Sì, tutti ce l'hanno, contattati li hai quelli che ce l'hanno. Cappa, almeno due sì. E cosa ti hanno detto? E cosa mi hanno detto? Roberto dice che ce l'aveva e non è che posso stare lì ogni 10 minuti a ripeterglielo, perché se una cosa una persona la vuole fare la fai via, e poi tu sai benissimo come funzionano queste cose, no? E l'altro? E l'altro ho saputo che ha fatto delle misurazioni da casa e poi niente, basta, tutto lì, tutto lì. Capa, io so che hanno fatto le misurazioni, che hanno un problema anche loro sulle bande laterali, so che hanno un problema e stanno cercando di risolverlo, poi non so dirti altro perché non ho sentito altro niente, però non so, io sei, è rimasta quell'altra mia, brutta però è rimasta. C'è nessun problema, dai, in una maniera o nell'altra risolviamo, Pierpa. Non è brutta perché è brutta la morte, non sono quelle le cose brutte. È brutto è per me quando, quando attacco la spina qui e non che pari la cosa del concerto filarmonico. Che invece non è roba di ripetitore come stiamo dicendo noi, se qualcuno che ha qualche apparecchietto non ho lavorato gli si mettono anche i capelli, poverino. Che pazienza, per adesso si stanno addrezzando a me, anzi si sono addrezzati a me i capelli, poi oggi a me, domani a te, come ti desidera qualcuno e via. Io sono quasi un mese e che tra mattina e sera mi si stanno addrezzando i capelli, poi ciccia. Vabbè, non te ne so più di qual è, se ne frega, quindi io dico sempre pigliate che a me. Cappa per qua, perfettamente d'accordo con te, cioè pazienza sì, case su con mesi così cercando di mediare in una maniera o nell'altra, però se non si può fare niente, pazienza, e cosa devo fare? Guarda, l'idea del ripetitore è che possa disturbare quel punto preciso, quell'aria, un po' bizzarra che non mi forte in un determinato punto e più debole tutto attorno, perché cazzo quelli che se hanno un qualche cosa prende un'aria abbastanza vasta, non così. Una volta che sono venuti dalla RAI con quel furgone lì, hanno beccato qual era, lo sai cosa era? Era un amplificatore di antenna TV, no? E nessuno lì, allora, una, due, tre, in tre vie, pratica un quadrato di zona lì dove siamo noi, no? Non riuscivano a vedere Rai 1, e allora sono venuti per primi questi della Rai, hanno fatto le verifiche, hanno sollevato l'antenna di questo furgone, hanno beccato il segnale, questo segnale di disturbo da dove arrivava, arrivava da lontano. riparare per il momento, aggiustare, riparare quello che c'è di rotto, altrimenti noi siamo costretti ad avvisare le autorità. Le autorità gli hanno messo in mano la legge, questa è la legge, se la legge va bene, quando vengono quelli non la usano mezzi termini, quelli agiscono e basta. E non sono come noi, noi siamo i tecnici della RAI e la invitiamo soltanto a fare, a staccare per il momento, perché lei sta privando la gente che paga il caro di guardare il rigua. Se non lo fa, noi, se ci riparano la telefonata che le cose non sono cambiate, noi passiamo tutto in mano con le verifiche che abbiamo fatto, passiamo tutto in mano alla polizia postale. A me si è attaccato in pressa, e anzi, ha detto pure, e ringrazio che non ci sono anche le spese da pagare. Lo so, stessa cosa che avrei fatto io, trovando la persona che con l'apparecchio mi trovava da dove usciva il segnale, no? Questo segnale di disturbo, stesso discorso, così chiaro, limpido e bello, gliel'avrei fatto anch'io. Infatti, però se non ci sei riuscito, vai per le vie forti e basta, stai lì. Vai lì, la polizia postale, la denuncia boh. Adesso io domattina mi faccio questi due giretti che mi devo fare, dopodiché vado su in via Brigata Sassari, intanto chiedo informazioni e vedo un pochino come mi posso muovere, perché ti ripeto, andare a Tentoni non mi va. Ma infatti non è, c'hai tentato volontariamente, non sei riuscito a trovarlo, ormai l'unica soluzione è quella, vai per le vie che devi andare, stai guardando la vacca, andare alla ciccia. Cappa di positivo, perfettamente d'accordo con te, anche perché poi, ripeto, ha proprio coinciso col sollevamento dell'antenna, anche perché prima, se ben ci ricordiamo, rimanevo anche ore e attaccato al baracchino senza aver nessun problema. Se ti ho detto che questo disturbo lo c'è solo io oppure altri, no. Quando sto mollando con il mio amico, lo so, disturba anche a lui. Ma ti autorizzo anche a dare il mio nome, la testimone. Cappa Pierpa, dai, adesso vediamo un pochino come, sto parlandoci con queste persone, vediamo un pochino come si può risolvere, vediamo un po' cosa, e a me l'importante è che mi eliminino questo disturbo qui, poi per il resto, guarda, facciano quello che vogliono. Aspetta un attimo che ti sto cercando il numero del telefono, lo do adesso. Giuseppe, tanto a te non ti guarda, non ti avrebbero guardato manco in faccia. Se lo fai tu, se era successo a te una cosa del genere, sarebbero venuti lì e ti avrebbero fatto quello che ti avrebbero fatto. Quindi cosa devi fare? Devi guardare in faccia certa gente, ma manco per sogno. Loro qua, come ti ha detto papà poco fa, mi stavano già girando con le spalle. Tanto siamo in tarda ora, la posso anche dire. Ho cercato di risolverlo. Quindi a te non ti apprezzano in faccia, per niente. Ti metti il bastone fra le ruote. Quindi tu devi guardare in faccia ad altra gente. E hai sbagliato a fare. Io ho un disturbo qua. Con questo disturbo non mi interessa niente. Io devo risolverlo, punto. Sì, avanti. Vuoi il numero? Vai. Allora, il numero di telefono è quello dell'ufficio di Sassari, 079 23 49 21. Questo è l'ufficio della Polizia Postale di Sassari. Se non basta questo, se non ti danno risposte soddisfacenti, però quello lo devo cercare, ti do quello di Cagliari, proprio l'ufficio, ho detto di Cagliari, dove escono proprio le direttive di tutto. Cappa di positivo, ti ripeto questo di Sassari, a parte il prefisso, la bocca è 079 239-4921. Positivo, quella è quella di Sassari. Però poi domani mattina devo guardare nei fogli e c'ho quello di Cagliari anche. Ma comunque questi qua già ci sono, ci sono sempre, ci dovrebbe essere anche di sabato. K di positivo, tanto io domattina niente, mi sono messo in testa di muovermi e sono in piedi da presto domani mattina e vedo un pochino com'è, perché tanto non sto lì a girarci troppo intorno perché ho perso anche fin troppo tempo e niente, giusto un'oretta e mezza per farmi un giro d'orizzonte qui intorno per vedere se qualcuno riesce a dirmi qualcosa, tipo il tipo lì della Telecom e compagnia bella, dopodiché vado e ciccia, e vada come vada. Infatti, come vado, meglio perché provando queste cose, se poi il ripetitore tanto meglio, mi chiaro manco, grazie per lo sfratto e si occava. Ah, speriamo. Vediamo, speriamo. Che? Io so. Chi sei? Guido. Guido? Sì, la Vespa. No, anzi, il baracchino. Guido la moto è questo, Pierpa. Ne parte di due. Lo guidavo la bianchina. Più così, è ora. E non si scendevo lo sono, no. Natalino. Tutto vero, sì. Niente hermano, c'è solo il tasto del microfono. Sicuro so. E via. C'è anche la cannetta. Stai zitto tu che ti lo sia, già lo sai, a fuga intro. Io fritto, mi piace che c'è la cannetta qua. Hai occhi di fuori. Chiuso Mario, là. Chiuso? Sì, eravamo sul 14 poco fa con Alessio e con Mario perché dovevamo dirci cosa e eravamo lì. Adesso sono tornato qua, stavo ascoltando. Capo, a non saperlo che eravate sul 14, che eravamo venuti anche noi ad ascoltare. La nostalgia del 14? Cosa? No, Giuseppe, c'è la nostalgia del 14. Fuoco al rogo il 14. Natalia è quello che gli salta fuori quel rumore, proprio il segnale più forte. E va a essere sull'11 alfa, è più forte ancora del 14. No. Oh, Natalia, lì non l'ho provato, guarda, ne ho provato tanti per carità, guarda, in questo mese cosa tutto non ho provato pur di scappare da quel rumore lì. Perché se ti arriva quando scala sull'11 alfa, ed è lì, è qualche cosa di sorveglianza, perché è riservato a quei servizi lì, l'11 alfa. Beh, adesso vediamo, dai. Niente di strano che... non lo so, niente di strano, niente. Niente perché ormai più di quello che ho pensato non posso pensare. Perché stavo parlando con una persona, mi stava dicendo così. Anda bene, vera. Vabbè, ci penseranno loro se qualche cosa di sorveglianza e a tirarlo fuori, Natalia. Io mi sono arreso e adesso ci penseranno loro, dai. Mi spiace arrivare a questo, però effettivamente farmi marcire l'antenna sul tetto non me la sento, preferisco più buttarla giù, ci metto mezz'ora a attaccarmi tutto, me la vendo e mi faccio fuori tutto quanto e sono in pace col mondo, con me e con gli altri. Ma non c'è mica bisogno che ti vendi tutto, no? Vai lì e fai l'esposto, quanto ci vuoi. Se ti interessa una Mantova 1 non c'è problema, eh. Oh, nuova, vieni, ne conosco uno, nuova. A fine la Giuseppe. Garantita al 100%. detto il che vuoi tu, ti guarda, ti regalo il che vuoi tu, io se ne vado io, questi. Oi, magari poi mi entra ancora più forte i segnali a Torino, te li immagini? Sto dicendo, assolutamente non ti avete più forte, comunque, se vuoi, ti regalo il che vuoi, basta le mani dove sei. Sì, io già sono qui dove sono, Antonè, l'importante è che mi facciano rimanere qui dove sono, perché non credo di aver fatto niente a nessuno. Ti ripeto, strano questo cosa, dopo tutto il lavoro che ho fatto, tutta la passione che ci ho messo per tirarla su, il giorno dopo è venuto fuori questo rumore qua. Comunque sia, ma è un po' vecchio. Ho avvicinato il fuoco grosso, che si ferma per tutto. Che si ferma per le punte di questi punti. Cappa di positivo, cappa di positivo, mannaggia. Sono mezzanotte meno un quarto, domani per noi, giornata triste, quindi io ti saluto, magari ci sentiamo domani, così mi farei sapere se hai risolto qualche cosa, non ti preoccupare che anche giù la troviamo la soluzione, in una maniera o nell'altra la troviamo, altrimenti cerchiamo chi ci affitta uno di questi apparecchi anche in affitto e lo troviamo noi. Cappa di positivo, dai Verba. Buonanotte, buon tutto. E niente, dai. E ce la sentiamo domani, anche io adesso chiudo le trasmissioni. Cavolo, mi è sembrato vero passarmi un'oretta tranquillo senza quell'assillo nelle orecchie. Ok, dai, ce la risentiamo sempre che il segnale sia libero domani, se non una maniera nell'altra, in verticale ci sentiamo lo stesso. Buonanotte a tutti, grazie per la compagnia e ci sentiamo domani, dai. QRT da parte mia, buonanotte a tutti. Ok, dai, ciao Giuseppe, ciao a tutti quanti, ci parla a tutti, dai, buonanotte. Ce la riscontriamo con tutti domani, dai, Natalino, Giuseppe, Pompoio, se c'è ancora Mario, e a tutti che avete l'ascolto, dai, ciao, buonanotte. Ciao a tutti, anch'io sto chiudendo. Ci sentiamo alle prossime, mi guardo un po' di TV e poi vediamo di dormire un po'. Alle prossime. Ciao, Natalino. Anche a te Giuseppe, mi ha fatto piacere sentirti stasera, perché ero già un po' di giorni che non ti sentivo, un pochettino, dico la verità, dai, ero un pochettino triste, perché insomma, capra, buonanotte Giuseppe, ce ne sentiamo tutta domani. Ciao, Giacca per Natalina da Pompone, ciao. Sì, ciao a tutti, comunque buonanotte, alle prossime, statemi bene, a domani, ciao Giuseppe.